Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Vi ricordo la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it e vi ricordo anche il mio indirizzo del blog Guardie o Ladri, come la trasmissione che conduco alle 19.30 il sabato su Radio 24, oppure robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Come sapete, in questa trasmissione noi parliamo di violazioni dei diritti, piccoli o grandi abusi, piccole o grandi truffe, insomma tutto ciò che cozza e si scontra contro il diritto. E trattiamo anche di casi che siano quanto più possibile rappresentativi di una moltitudine di persone. Tra questi, una coppia, due coniugi laziali, a provincia di Roma, siamo a Segni, Tiziana Novena e Giuseppe Boresta. Cosa ci scrivono? Ci scrivono per rappresentare una cosa che accade a migliaia, probabilmente, di famiglie in tutta Italia, vale a dire la lotta quotidiana con l'assegnazione o la nuova assegnazione di un alloggio di edilizia, si diceva una volta popolare, oggi si dice edilizia pubblica. E il caso ce lo rappresenta proprio Giuseppe Boresta, al quale do il buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo? Cioè, rappresenti sinteticamente la sua storia ai nostri radioascoltatori. È difficile spiegare e far comprendere in pochi minuti il disagio reale di far vivere in 40 metri quadrati una famiglia di 5 persone, di cui 3 di questi qua sono bambini, e sappiamo l'importanza dello spazio nell'età adolescenziale. Ci è stata assegnata in via provvisoria un alloggio, diciamo, di questo ringraziamo anche il sindaco e la ex commissione, ma abbiamo accettato questo, diciamo, questo appartamento perché eravamo in condizioni igieniche e sanitarie dei nostri figli che stavano fortemente compromettendo. La mia più grande era stata ricoverata, diciamo, con pleuropolmonite e versamento al polmone, è stata ricoverata all'ospedale. Il mio figlio, il secondo, aveva un'asma bronchiale, la terza aveva già la bronchiolite. A fronte di questo qua siamo riusciti, insomma, che abbiamo vissuto, siamo riusciti a ottenere questa casa, e ci pare assurdo dover vivere giorno dopo giorno e avere in questa casa a 40 metri quadrati, avere davanti a noi una casa sfitta, dico completamente sfitta, di una metratura molto maggiore. Ecco, mi scusi se io le interrompo, allora lei ha vissuto, diciamo così, per circa 3 anni in questo alloggio di 40 metri quadrati, nel frattempo, come dire, la famiglia è anche aumentata, o comunque insomma i figli sono cresciuti, e lei ha fatto domanda per avere una casa di una metratura superiore. C'è stata assegnata in via provvisoria proprio, cioè proprio sul contratto. In attesa di una nuova alloggio, di un nuovo alloggio di una metratura maggiore, dunque. Esatto, che in quel momento si stavano attivando per poter reperire. Ecco, quando però ho scoperto questa situazione stranissima di trovare da proprio davanti a casa mia un alloggio chiuso tutti santo giorno la mattina, e che io ho saputo essere scritto da 20 anni. Guardi, queste cose le diciamo subito, perché la nostra è una trasmissione, io amo dire, i nostri radioascoltatori, senza rete, nel senso che le trasmissioni vengono accuratamente preparate prima, grazie all'opera anche di chi è dall'altra parte dello schermo dal quale vi parlo, quindi regia e la mia assistente Laura Faggin. Ma nel momento in cui si dialoga senza domande precostituite. Quindi la domanda che vorrebbe fare lei e che ha messo nella sua lettera la faccio io, perché lei a un certo punto dice: ma è strano che dall'altra parte c'è una casa che viene assegnata ad una famiglia che si chiama Ciafrei, chiusa da 20 anni, e guarda caso c'è un Ciafrei, architetto Valerio, come si direbbe quando si scrivono le etichette sul portone di casa, che è un consigliere dell'azienda territoriale per edilizia pubblica della provincia di Roma. E noi ce l'abbiamo collegato con noi Valerio Ciafrei. Buongiorno Ciafrei. Buongiorno. Allora io direi innanzitutto, lei è parente dei Ciafrei che hanno... Ecco, fatemi dire che non so chi sia assolutamente questo Ciafrei Ernesto. Ecco. Io voglio precisare che sono di Velletri, dove le famiglie Ciafrei sono solamente due, non hanno altri parenti. perché invece in quell'area, io so, Artena e così via, ci stanno diversi ciafei, ma che non c'entrano nulla assolutamente con la mia famiglia. Quindi togliamo la malizia, ecco, che potrebbe sì, essere indotta non dal nostro radioascoltatore, che però l'ha messa per iscritto, quindi ha avuto il coraggio di fare, come dire, questa supposizione, ma solitamente si dice, beh, tanto... No, non ha potuto fare la supposizione, no, perché io non sapevo neanche di... No, intendo dire, spesso, stavo concludendo, si fanno dei ragionamenti un po' maliziosi, no? Le case poi vanno a finire sempre ai soliti noti, sempre ai soliti raccomandati, c'è sempre il modo per scavalcare le liste, eccetera eccetera. Quindi intanto sgombriamo il campo dagli equivoci, quel ciafrai non ha nulla a che vedere con lei. Però a questo punto entriamo nel vivo, invece io le chiedo, architetto Valerio Ciafrei, che nulla ha a che vedere con quella famiglia, con quali criteri si assegnano queste case? E ad esempio il caso del nostro radioascoltatore Giuseppe Boresta è un caso eccezionale, è un caso che si presenta spesso. Ecco, cosa possiamo dire intanto di questa situazione? Allora, il caso, io mi sono informato presso i nostri uffici, il caso è particolare perché questa persona, Boresta, gli è stato assegnato questo alloggio che era l'unico disponibile, che certamente non era confacente alle loro esigenze, ma quello c'era e che sappia io non so quando. Comunque gli è stato assegnato quell'alloggio. Non c'è dubbio che il signor Boresta ha diritto ad avere un alloggio adeguato alle condizioni familiari, ma questo in genere avviene o perché c'è da assegnare nuovi alloggi, quindi liberi subito, e allora si assegnano a chi non ha quelli adeguati, o addirittura si potrebbe fare un cambio, ma i cambi di alloggio possono essere fatti solo se c'è il consenso reciproco degli inquilini. Certo, ecco, ma io le chiedo questo. Le informazioni che io ho assunto, si contesta il fatto che mentre ci sono degli alloggi liberi da tempo, quindi con la possibilità di poterli utilizzare, questa persona non riceve soddisfazione giustamente. Certo. Perché appunto, mentre altri... ecco, però io le chiedo questo, architetto, la chiamo architetto perché così almeno la distinguiamo da quel ciafrei che abita in quella palazzina da 20 anni, questo qui ovviamente secondo la testimonianza di Boresta. Ma allora, ma lei si è informato su quella casa ad esempio, ma perché questa casa è sfitta da 20 anni, o meglio probabilmente sarà stata assegnata ma non ci vive nessuno, ma com'è possibile una cosa del genere? Se è vera, intendo dire. No, purtroppo queste cose sono vere e sono all'ordine del giorno nostro quasi tutti i giorni in tutti i comuni. Succede molto spesso. E come può succedere? Cioè, a me francamente mi sembra una cosa... Non è che è completamente libera, quell'alloggio ce l'aveva, è rimasto alla moglie, che e a noi non è mai risultato, non ce n'è mai stato fatto pervenire prima, che seguitano a pagare, seguitano a utilizzare l'alloggio anche se non ci vanno dentro. Per cui se non arriva una segnalazione con degli accertamenti ben svolti, e spesso riescono a non far fare questi accertamenti, quell'alloggio rimane assegnato senza però essere veramente... Ecco, ma secondo lei questo è giusto? Cioè io adesso io non vorrei personalizzare, ovviamente. Se noi non arrivano gli accertamenti, non possiamo fare altrimenti. Questi accertamenti sono stati svolti, fatti, abbiamo aperto oltre 40 fascicoli, di cui 23 sono quelli su cui noi abbiamo fatto le decadenze. Noi abbiamo fatto... Quindi gente che non ha più diritto ad abitare nell'immobile che aveva ricevuto. Esattamente, naturalmente queste persone possono fare le opposizioni a questo, che quindi hanno qualche giorno ancora di tempo, ma nella sostanza, per quanto riguarda questo alloggio, assegnato appunto a questo signor Ciafrei Ernesto, è stata fatta la decadenza. Ah, ecco, quindi... Nel momento in cui viene fatta la decadenza, il comune può intervenire riassegnandolo, e immagino, spero, che il comune possa assegnarlo a il signor Boresta. Ecco, anche perché probabilmente sarebbe anche più semplice il passaggio, no? Visto che ce l'ha di fronte. La legge dice che sono i comuni che fanno le nuove assegnazioni quando un alloggio si rende libero. In questo caso si renderà libero perché noi abbiamo notificato all'interessata, perché mi sembra che oltretutto questo signor Ciafrei sia morto, all'interessata abbiamo notificato Bene, bene, bene. Allora, io ringrazio l'architetto Valerio Ciafrei, consigliere di maggioranza dell'azienda territoriale per l'edilizia pubblica della provincia di Roma per il suo intervento. Ringrazio il nostro radioascoltatore Giuseppe Boresta che ha scritto a unabusoalgiorno@radio24.it. In regia ringrazio Giorgio Matei, in studio Laura Faggin e diamo appuntamento a domani, ma continueremo a parlare ancora di assegnazione delle case di edilizia pubblica. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti.